Sura della Catastrofe, capitolo 101 del Sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 11 ayat e discesa dopo la Sura 106, Quraysh. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso e clementissimo, Al-Qari'ah. Cos'è Al-Qari'ah? E cosa mai ti spiegherà che cosa è Al-Qari'ah? È un dì nel quale gli uomini saranno come sciami di farfalle notturne che turbinano attorno al fuoco e i monti come lana scardassata. Colui la cui bilancia sarà pesante di buone azioni avrà una vita futura di cui sarà soddisfatto. Colui la cui bilancia sarà leggera di buone azioni avrà per madre Hiyya, la voragine dell'inferno. E che cosa potrà spiegarti Hiyya? Un fuoco rovente.